tempo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, yeah, 26 giugno è estate. Lo staff di Dedicato è già al mare. Voi non sapete, perché a voi sembra che noi siamo qui, ma noi non siamo qui, noi siamo ovunque, perché è estate, perché le scuole sono chiuse, siamo in vacanza, cioè loro sono in vacanza, io e il resto dello staff intendo per loro, perché io ovviamente come tutte le persone adulte non faccio 3 mesi di vacanza mai nella vita, ma i nostri fanciulli sì, quindi si sentono liberi, gioiosi, accaldati, ma siamo al mare, basta, noi siamo al mare, con la testa, con il corpo, con tutto quello che volete, noi siamo al mare perché è estate, e d'estate lo staff di Dedicato va al mare, non solo, aspettate, cioè un attimo, si va anche in montagna, si va anche in collina, si va in un sacco di luoghi, siamo tutti in giro sparsi perché diciamo 3/4 di noi sono musicisti, 1/4 di noi sono attori, e quindi siamo tutti in tour, chi più chi meno, i fanciulli sono in giro con le loro famiglie, quindi niente, direi che a questo punto ci si risente in autunno. Tanti saluti, no, questo è l'inizio della puntata, mi stanno facendo segno, sì, è l'inizio della puntata, va bene, state zitti, non cominciate subito a fare del caos oggi per cortesia, perché è l'ultima puntata e quindi... Possiamo andare avanti? No. Sì, andiamo avanti, ma facciamo 2 step indietro e torniamo a Eufonica 2024, dove Dedicato ha tenuto un laboratorio radio per 3 giorni in fiera a Bologna e abbiamo un sacco di materiale, di contributi che sono stati creati appunto durante questo laboratorio, sia dallo staff di Dedicato sia dal pubblico presente a Eufonica. È stato veramente un momento molto bello. Questa è l'ultima puntata, quindi diciamo che mandiamo l'ultima intervista di questa stagione di Dedicato, poi dall'autunno ricominceremo ad ascoltare assieme i contributi creati in Eufonica 2024. Questa intervista è l'unico momento serio di questa puntata, sappiatelo. Allora, siamo qui a Eufonica 2024 con Roberta Giallo, una cantante fenomenale, con una voce veramente spaziale, direi. Ciao Roberta. Ciao, ciao a tutti, grazie mille. Grazie di essere qui con noi. Allora, noi, un po' come agli altri artisti, vogliamo chiederti come è nato il tuo percorso, come sei arrivata a diventare una cantante così importante e brava, perché comunque ai nostri giovani interessano i percorsi e come ci si arriva, no? Quindi da dove sei partita e anche dove sei arrivata. Cosa consiglieresti ai nostri fanciulli di intraprendere come percorso per arrivare a un certo livello musicalmente? Allora, guarda, chiaramente cercherò di riassumere il non riassumibile, però dicendo delle cose che trovo importanti. Piccolissima, avevo 4 anni e mezzo, i miei si accorsero che amavo cantare, canticchiavo, e quindi mia mamma pensò di portarmi a lezione di piano e mi piaceva. Quindi ho avuto, come dire, la possibilità di entrare subito in confidenza con uno strumento. Io ho studiato pianoforte classico 7 anni, anche se poi ho capito che la mia strada che prediligevo era quella di comporre e scrivere canzoni. Quindi più che diventare un'esecutrice classica sono diventata una cantante, cantautrice e compositrice. Ho anche studiato canto lirico, però anche lì il mondo della lirica magari mi serviva capirne un po' le tecniche, la tecnica e i meccanismi, però volevo fare roba mia. Quindi ho studiato, poi ho fatto anche il CED di Mogol, ho vinto borse di studio che mi hanno permesso di completare il mio percorso, feci un master di canto lirico con Leone Magera, noto accompagnatore di Pavarotti, però tutto è stato funzionale poi a elaborare il mio percorso personale, perché volevo fare quello, quindi essere una cantautrice che poi insomma prestata anche al cinema, perché non mi sono mai chiusa io stessa le porte, se no quelle che magari ti possono chiudere gli altri, ma io non me ne sono mai chiusa. E quindi poi sono arrivati i primi riconoscimenti, mi sono iscritta, ecco, potrei consigliare ai giovanissimi intanto di prendere confidenza con uno strumento, che sia, non so, una loop station, che sia un pianoforte, una chitarra, ecco, entrate in confidenza profonda, perché voi dovete arrivare sul palco sicuri di avere un amico vicino a voi, e poi formarsi, fare concorsi, premi. È chiaro che c'è chi è più portato a studiare, chi meno, no? Chi magari a fare altro. Però ecco, crederci, darsi da fare, non demordere di fronte alle porte chiuse, perché ognuno può strutturare il proprio percorso, se ci crede e soprattutto se ama farlo. Se non ami fare questo lavoro non potrai mai affrontare le tante difficoltà, che ci sono e sono tante, però si viene poi ripagati da tanto quando qualcosa piace, insomma, agli altri e arrivano i riconoscimenti. Ah, ecco, bene. Quindi i tuoi brani sono tutti brani originali, composti da te, hai avuto collaborazioni, raccontaci un po' questo lato musicale della tua carriera. Allora, io sono un po' un paradosso perché, come tutti i cantautori e le cantautrici, ho un aspetto di solitudine fondamentale, cioè nella solitudine creo, raggiungo, come dire, la parte più profonda della mia anima, dei miei sentimenti, però sono anche un'anima molto corale. Quindi come ho unito questo aspetto e della solitudine, diciamo così, della cantautrice e del voler fare musica insieme agli altri? Intanto ho fatto parte per un coro per tanti anni, un coro polifonico dove studiavamo dal gregoriano al canto gospel, quindi ho sempre mantenuto, come dire, un legame anche con gli altri. Poi il mio terzo album, Canzoni da museo, ad esempio, è un album in cui ho voluto musicare dei testi di alcuni poeti, tra cui Roberto Roversi, che scrisse anche per Dalla, tra cui Davide Rondoni, poeta a tutto resistente, Giovanni Gassel, notissimo fotografo ma anche poeta. Quindi lì è stato un esperimento in quell'album di condivisione, cioè musicare testi di altri per dare voce alla poesia, no? E stabilire questo rapporto di parentela. E poi sono anche diventata da un po' di tempo produttrice, quindi quando entro in contatto con giovani artisti che mi chiedono consigli, è già quella un'operazione collettiva, ma comunque anche fare un disco, se è il tuo, sarai sempre in contatto con altri musicisti, con chi mixa l'album, quindi fare musica è essere un'anima che nel solitario, come in solitudine, cerca di arrivare alla propria anima, ma che poi la metti in relazione agli altri e poi alla fine anche il pubblico. Perfetto, guarda, è veramente, siamo molto vicine di pensiero bene. Musicale. E l'ultima domanda che ti faccio è progetti futuri. Che cosa ci racconti? Hai in mente qualcosa? Hai in previsione concerti, eventi? Sì. Allora, intanto diciamolo, perché facciamo pubblicità a questo album appena uscito, Reminiscenze, è il mio ultimo album, uscito il 26 aprile, tra le varie contiene due brani prodotti da Corrado Rustici, un brano in duetto con Samuele Bersani, che io ho scritto, Voce al Bene, e quindi sicuramente aspettatevi un'estate, ma anche un autunno in cui andrò in giro portando, facendo conoscere questo album, e che poi tra l'altro veramente anche della California, perché parte l'ho registrato là, quando prima del Covid, insomma, feci questa astronave già alla World Tour, un tour molto fortunato, sostenuto da SIA, eccetera. E poi chiaramente ci saranno altri concerti, anche io continuo sempre a portare avanti anche il lato pianistico, cioè piano e voce, insomma, anche riproponendo vecchio repertorio. E poi due premi, mi aspetta in realtà un premio importante a Cannes, dove verrà premiato il brano Voce al Bene e il videoclip, che sono in nomination con il brano Ci salveranno gli alieni, entrambi i brani di Reminiscenze, per un premio di Rai Cinema sempre dedicato al videoclip. Quindi è un momento in cui anche il videoclip c'è attenzione, se non altro a questa parte che fa parte appunto del percorso musicale. Quindi ragazzi, andrò a raccogliere un po' di premi. Fantastico. Felicemente, poi no, live, concerti e anche impegno, perché negli ultimi anni non l'ho voluto io, ma diciamo il mio impegno rispetto al fatto che la musica sia sempre più un posto per donne che scrivono, perché le donne ce ne sono, ma ci sono meno donne che scrivono riconosciute come grandi autrici. Quindi il fatto che io mi sia spesa negli ultimi anni per diffondere anche la musica femminile e sostenerla fa sì e farà sì che io sia anche ospite a, insomma, convegni, a cose di questo tipo, che è un po' forse l'aspetto più maturo della mia personalità. Non penso più solo a me stessa, diciamo, come è naturale che sia quando si è molto giovani, ma cerco anche di vivere collettivamente anche l'aspetto più sociale e della musica, che non è da sottovalutare. Assolutamente no, soprattutto ai giorni d'oggi, quando le donne ancora hanno tanti problemi, sì, da risolvere. Bene, Roberta, grazie veramente. Grazie a te, Erika. Ci risentiamo prestissimo. Grazie, buon percorso. Grazie a voi, ciao ciao. Mentre affioravano i ricordi di questa mia vita, l'anima intanto ricordava d'altre vite. Notizia eccezionale sulla prima pagina del giornale. Non c'è più niente da fare, sommersi dal male, cadremo più giù. Nessuna buona notizia su questo giornale, ma che si può fare? Forse ascoltare le antiche sirene, gettare le ancore in mare, oppure svegliarsi da questo torpore, cercare la rotta migliore verso il sole. La nostra fede ha cambiato la nave in un'efficiente astronave. Non più soggetti alla gravitazione, non siamo più schiavi del male. Che sensazione di gioia e di pace, qui non c'è più umano che tace. E ognuno dona la sua voce al vento, il lamento si trasforma in canto. E ora il sole avevano detto di credere a tutto e di battere sempre le mani. Eppure il loro non era un concerto, ma un triste dibattito spento. Roberta Giallo feat. Samuele Bersani, voce al bene. Dopo l'intervista con Roberta ci siamo scambiati i contatti, perché certamente la risentirete su queste frequenze, è veramente affine allo staff di Dedicato e alla nostra trasmissione, quindi ciao Roberta. Ora torniamo alla nostra serietà, insomma diciamo che abbiamo un po' di cose da farvi ascoltare. Qui i ragazzi girano, vanno, suonano, chiacchierano, dicono cose che non sono riproponibili in radio, ma noi andiamo avanti con la gioia dell'estate. Abbiamo uno sketch creato in eufonica o post-eufonica, insomma giù di lì in quei giorni, e sempre sull'onda, no, del nostro laboratorio radio. Questo è uno sketch un po' particolare. Andiamolo ad ascoltare, madre e figlia a confronto. Ok, allora oggi lo staff di Dedicato vuole proporvi un dialogo tra un adulto e un adolescente medio di oggi, anche se fortunatamente la nostra mascotte ancora non è adolescente, ma ci aspettiamo presto grandi evoluzioni. Quasi adolescente. Sì, sì, adesso stia calma, per cortesia, non si esalti, quasi, adesso quasi, con della calma. Quindi dialogo tra madre e figlia, facciamo così più o meno, facciamo finta, no? Madre e figlia, adulto, adolescente. La madre dice, amore, è quasi pronto da mangiare, hai finito le tue cose, puoi venire? Ah, ma fra un po' vado a dippa con gli zanza, non mi scassare, devo prepararmi, fra un po' vado in disco. In disco? Ma ti ha dato il permesso tuo padre? Io non no. Non mi interessa niente del permesso, io vado lo stesso a drippare con gli zanza e con il ragazzo mio di strada, bro. Cos'è che fai? Ascolta, Franco va a drippare con gli bro, zanza. Bro, fra, i suoi bro e i suoi fra e va in discoteca. Tu le hai dato il permesso? Io non le ho dato il permesso, non sono d'accordo che io lei vada... Io faccio quello che voglio. Sì, quello che... a drippare con gli zanza. Oh, ma che lingua parli? Tu non sai come parlo, ti devo insegnare tutto a te, se... Allora, senti, bella, io negli anni 80 e 90... avevo un linguaggio che te manco sai cos'è. Senti un po' come parlo io. Tu fu no fonca fa pifisci fini fie fente fe fai fica fa pifito fo cofosa fa o fo defetto fo e fe. Ma come parli tre fra? Bro, io parlo il farfallino, te invece vai a drippare con gli zanza, va. No, cara mia, io ballo la storia. benvenuti al TGM. Oggi siamo con la signora Aurora. Ciao a tutti. Allora, oggi stavamo qui con le nostre videocamere sempre a spiare la vita della gente. No. Normalmente, no. Perché il TGM deve sempre andare a immortalare i momenti veri. Poi quindi è accaduto un incidente. Qualcuno ha rubato le Nike di un Maranza. Cos'è? Cosa è successo? Chi è stato? Andiamo allora, con la nostra inviata Aurora, che ti potrà dire che cosa è successo. Allora, intanto non è un'inviata. Allora, meno male che non sono un'inviata. E meno male. Andiamo al fagiolo qua. Al fagiolo. Allora, poi, allora, ero qua davanti. A un certo punto uno si toglie le scarpe, non so, a caso, in mezzo alla strada. No, perché doveva ballare Assurdi, questo è il ballo del Maranza. Per quello poi, stava ballando l'Assurdi, aveva appoggiato le scarpe alla sua destra, in basso alla sua destra. E a un certo punto uno passa, mi prendo queste scarpe. Intanto con la mano sta facendo il gesto delle Nike. E poi il Maranza entra a rincorrere fino dietro questo ragazzo. Ok, dal TGM oggi è tutto. Ciao, dal TGM è tutto oggi. Ciao, dal TGM è tutto. Bene, grazie alle nostre non inviate del TGM. Il TGM è TG Mascotte. Questa è la nuova invenzione della mascotte per l'ultima puntata, ma credo che poi si protrarrà anche nelle puntate autunnali questo TGM. Noi invece adesso vogliamo lanciare un gioco, perché l'ultima puntata si lancia il gioco poi per l'autunno, anche qui, capito, come il TGM andrà avanti questo gioco. Noi abbiamo fatto dei medley con tutte le musiche che abbiamo mandato in dedicato, cioè poi tutte le musiche, adesso mi sembra una parola grossa, molte delle musiche che abbiamo mandato in dedicato, e però sono dei medley dove c'è 10-15 secondi di ogni brano. In molti casi è l'inizio del brano, in alcuni casi no. Abbiamo deciso così, insomma, molto creativamente la cosa. E voi dovete indovinare che brani sono, quindi iniziate ad appuntarveli, perché se ci scrivete alla mail dedicato radiofugico@gmail.com e ci scrivete tutti i brani giusti del medley di oggi, vincerete i gadget di dedicato, da spillette, adesivi, magliette e quant'altro. Quindi sappiatelo, è un gioco gioioso, molto bello, e niente, ascoltatevi questo medley e vediamo quanti brani riuscite a indovinare. Siamo buoni, quindi ve l'abbiamo fatta facile stavolta. In autunno peggioreremo, saremo meno buoni. la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Ok, allora, vi siete appuntati i brani, spero, se no ve la riascolterete in podcast. Per favore, cerchiamo di essere onesti, non utilizziamo app che riconoscono i brani musicali senza fare nomi delle app. Per cortesia, cerchiamo veramente, noi ci fidiamo di voi, quindi mandate le mail a dedicato@radiofujiko@gmail.com e vincerete i nostri fantastici gadget. Ora è arrivato un po' il momento dei saluti, è un momento romantico, questo è il nostro momento romantico perché per un po' di mesi non ci sentiremo, quindi preparatevi. Mascotte, è l'ultima puntata di Dedicato, poi si va in vacanza, Mascotte, l'ultima puntata di Dedicato di quest'anno. Mascotte, non dorma, cosa fa, dorme? Certo, sono nel letto. Mascotte, non siamo nel letto, siamo in studio, perché russa? Perché ho sonno. A quest'ora? Ma è ora di pranzo. E vabbè. Ah, questo è l'effetto vacanza, Mascotte. Ah, ho capito adesso. L'effetto vacanza, il riposo, quindi lei dorme. Mascotte dormirà tutti questi due mesi, tre mesi estivi? Ma perché devo anche fare i compiti, ma la mia scusa è o sto male, o dormo, o devo mangiare, o devo andare in bagno. Quindi informazione per le maestre della Mascotte. No! La Mascotte ha detto questa cosa, insomma, no? Vabbè, tu fingerà per informazione per le maestre della Mascotte. Puntata di Dedicato, allora cosa dite ai nostri ascoltatori? Dai, staff, su, musicisti, che dite? Passate quest'estate, passate una bella estate. Sì, vabbè, adesso queste cose da bambino delle elementari le facciamo dire ai bambini delle elementari. Di qualcosa di più creativo. Ah, è un pensiero importante questo. Ah, ragazzi miei, divertitevi tanto. Un altro pensiero da scuola elementare. Provate a non... A non pensare al lavoro per qualche mese. O allo studio, sì. Sì. Lei ha qualcosa da dire? No, perché lui c'è, ma lui è il nostro staff silenzioso. C'è lo staff silenzioso, sono in tre o quattro. Invece ci sono due che non smettono mai di parlare, anche quando dovrebbero. Vada. E niente, d'altronde è silenzioso, quindi basta. Ok, buone vacanze a tutti. Ciao. Arrivederci. Buone vacanze. Almeno la risata ce la fai. Sì, sì. Ah, ecco, grazie, era quello silenzioso. Quindi buone vacanze a tutti gli ascoltatori di Dedicato, ai nostri supporter, soprattutto perché quelli anche a chi tempo. Si guarda nello specchio, sì, e da tempo non si vede e più. E anche a chi si nuota nello specchio. A chi ha lavorato. Ma anche no, perché noi siamo già al mare, voi non lo sapete, ma noi siamo in un luogo X indefinito della Riviera Romagnola a suonare e a fare i pazzi come al solito. Quindi buone vacanze, vi vogliamo un sacco bene, ci risentiamo in autunno. E auguro a tutti i bambini buone vacanze, fate i compiti. Buone vacanze! A chi si guarda nello specchio da tempo, parababà, parababà. Now